Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. La storia del cinema sarebbe diversa senza quelle inspiegabili alchimie che hanno sempre legato grandi registi e particolari attori. John Ford e John Wayne, Truffaut e Jean-Pierre Léaud, Martin Scorsese e Robert De Niro. Registi, creatori di personaggi, di storie, di sogni e attori feticcio, corpi che diventano strumenti con cui dare vita a visioni, incubi, immaginazioni. L'infanzia e l'adolescenza di uno dei registi più noti e amati del cinema contemporaneo, Tim Burton, è popolata dalle visioni più strampalate e bizzarre. Alcune di queste portano la firma di binomi vincenti e magari un po' meno noti. Roger Corman e Vincent Price, ad esempio, la coppia protagonista del celebre ciclo di film degli anni 60 tratti dai racconti del terrore di Edgar Allan Poe. Sei sul punto di entrare nell'inferno, Bartolomeo. O il nerd Ed Wood, il peggior regista di tutti i tempi, autore del cult movie Piano 9 dall'interspazio, e Bela Lugosi, il primo Dracula del grande schermo, con i loro film teneri, improbabili, inguardabili e anche inascoltabili. Muovo io i suoi fili! Muovo io i suoi fili! Oggi Destini incrociati parte da un set cinematografico della Florida nell'anno 1990. È il set dove Burton sta iniziando le riprese di Edward Mani di Forbice. Andremo alla ricerca delle intersezioni che il caso ha costruito per formare uno dei binomi più brillanti di Hollywood e della cultura pop contemporanea. Il primo polo di questa coppia è proprio il regista di Edward Mani di Forbice, Tim Burton. L'altro, probabilmente avete già indovinato di chi si tratta, ma preferiamo svelarvelo dopo. Per il momento facciamo un passo indietro e andiamo a scoprire qualcosa di più su Timothy William Burton. Timothy William Burton. Sono cresciuto nei sobborghi e continuo a non comprenderne alcuni aspetti. C'è una certa vaghezza, assenza. Crescere in periferia è come crescere in un luogo senza senso della storia, della cultura, senza coltivare la passione per nulla. Non percepisci l'amore per la musica, l'espressione di emozione. Era molto strano. Mi chiedevo che ci faccio qui, su cosa sono seduto. Non c'era attaccamento verso le cose. Per essere accettato dovevi tagliare una grande fetta della tua personalità o sviluppare una forte vitalità interiore che ti permettesse di sentirti diverso. Questa periferia senza tempo e senza storia in cui Burton nasce è quella di Los Angeles. Per la precisione, Tim nasce a Burbank, a pochi chilometri dalla Città degli Angeli, uno di quegli agglomerati urbani della provincia statunitense in cui, alla fine degli anni 50, il pericolo atomico e il boom demografico producono un generale appiattimento e impongono un colloso conformismo di fondo. Ogni stravaganza, ogni approccio personale è fuori dall'ordinario, vengono visti con sospetto, con diffidenza. In questo contesto tutt'altro che stimolante, Tim sviluppa da subito una profonda tendenza all'evasione. Sin da piccolo si imbottisce di horror, di film di fantascienza di serie B, di racconti gotici e di bizzarri film d'animazione, come quelli dedicati al Grinch. Help, Grinch! Tra le visioni favorite di Burton dall'adolescenza, i film di Roger Corman dedicati ai racconti del terrore di Edgar Allan Poe. Splendidi capolavori gotici girati con due soldi, come Il Pozzo e il Pendolo o I Vivi e i Morti. Protagonista di questi film, uno straordinario attore americano, Vincent Price. Price è un attore magnetico, una di quelle figure irreali, scolpite nella notte, che ti catturano l'immaginazione e non la restituiscono più. È alto, elegante, sontuoso. La sua voce è calda, seducente. Il suo sguardo penetrante. Il suo aspetto è inquietante e disturbante. Burton ne è rapito. Il suo spirito adolescenziale lo spinge fino ad immedesimarsi con i suoi personaggi. Quando la sua immaginazione vola e immagina storie e mondi, il protagonista è sempre lui. Prima ancora di essere un regista, Burton ha il suo attore feticcio, preso in prestito da Roger Corman. Vincent era un attore straordinario. Quando in TV vedevo uno dei suoi film del ciclo di Edgar Allan Poe, diretti da Roger Corman, rimanevo letteralmente incantato. era davvero strepitoso. A 18 anni, Barton vince con un disegno realizzato per decorare i camion della nettezza urbana di Burbank una borsa di studio per il Cal Arts, la scuola di belle arti e disegno della Disney. La sua carriera nel cinema inizia in quella fucina di sogni che è l'animazione. Per 3 anni studia, disegna, crea, si diverte con i futuri guru della Pixar, Brad Bird e John Lasseter, i suoi compagni di corso. Alla fine del ciclo di studi, con il corto Stalk of the Celery Monster, il suo lavoro di tesi, stupisce compagni e professori, come dice lo stesso Brad Bird. Stalk of the Celery Monster ha catturato l'attenzione della Disney perché, a differenza degli altri studenti che usavano i loro film per sperimentare le varie tecniche di animazione, Barton l'ha usato per raccontare una storia. La Disney lo arruola immediatamente nel suo team di animatori. Tim lavora prima su film come Red e Tommy, Nemici e Amici, o sulle bozze di Taron e La Pentola Magica. Bene, allora entrate dentro. Non vi costerà altro che la vita. Ma non è questo il tipo di immaginario che si addice alla visione del mondo e dell'arte di Tim. Disegnare tutte quelle volpi a 4 zampe, davvero non potevo farlo. Non riuscivo nemmeno a imitare le volpi Disney. Quelle che disegnavo io sembravano investite da un'auto. Così, nel 1982, la Disney, avvertendo l'insofferenza del talentuoso animatore, per tenerselo buono, gli elargisce $60,000 per girare uno dei suoi progetti personali. Così Barton esordisce come regista. Il risultato è il piccolo gioiello d'animazione Vincent. La storia, naturalmente, è quella di un bambino di 7 anni che sogna di essere Vincent Price. Vincent Malloy is 7 years old. He's always polite and does what he's told. Vincent Malloy è un bravo bambino. Ha 7 anni ed è assai perbenino. Per la sua età ha virtù assai rare. Ma Vincent Price vuol somigliare. Avete fatto caso alla voce che ha recitato questi versi? È la voce di Vincent Price. Siccome il caso a volte trova vie inaspettate per realizzare i sogni, il grande attore inglese accetta sorprendentemente la bizzarra proposta che gli viene fatta da uno sconosciuto animatore della Disney di nome Tim Burton. Leggere la storia in versi del piccolo Vincent Malloy, bimbo dalla macabra immaginazione che sogna di essere proprio Price. La filastrocca che Burton ha scritto, ricalcando Il corvo di Edgar Allan Poe, sarà la voce fuoricampo da commento al film. È stato incredibile. Senza troppa convinzione ero riuscito a far recapitare il piccolo poema che avevo scritto a Vincent Price e lui ha accettato subito di prendere parte al progetto, naturalmente con la sua voce a commentare le immagini. Vincent si è trasformato e da allora tra noi è nata una buona amicizia, una cosa straordinaria per me. La carriera di Burton prende il volo proprio da qui. Tra le cose che gira nella prima fetta della sua carriera, Vincent è quella che gli apre più porte. Tra queste opportunità spicca un primo lungometraggio, Pee-wee's Big Adventure, un film demenziale su un personaggio comico della TV americana che gli viene affidato proprio perché l'attore protagonista si ricorda di Vincent, visto in un festival di cinema d'animazione. Poco prima delle riprese di Pee-wee, Burton fa un incontro eccezionale, destinato a cambiare il corso della sua carriera. Burton capita per caso in un locale dove suona la rock band Oingo Boingo, il cui leader è il cantante e chitarrista Danny Elfman. Il regista è affascinato dalla loro musica, li avvicina e con Elfman nasce una solida amicizia. In occasione di Pee-wee, Burton chiede ad Elfman di scrivere la colonna sonora del film. È l'inizio di una carriera strepitosa che porta il cinema di Burton ad avere il suo tono musicale inconfondibile ed Elfman ad essere uno dei compositori per il cinema e la televisione più prolifici. Se Burton non avesse scoperto Elfman, forse oggi non sentiremmo nemmeno questo motivetto, forse la più celebre delle sue composizioni. L'incrocio di destini tra Burton ed Elfman è sicuramente suggestivo, come potete sentire dalle musiche che accompagnano questa puntata. Ma non è questo l'incrocio che vogliamo scoprire oggi. Torniamo al 1985. Per Burton arriva un successo dietro l'altro. Beetlejuice nel 1987 e poi Batman nell'89, che lo impone come il giovane regista più talentuoso e redditizio di Hollywood. Gli studios, che non sono certo teneri e accondiscendenti, lo premiano. Nel 1990, a soli 32 anni, Tim può tirare il fiato dopo la mega produzione di Batman e può girare il film che vuole rispolverando una vecchia idea. Il soggetto di Edward Mani di Forbice prende così le mosse da un'immagine che avevo in testa fin dall'adolescenza, quella di un uomo con forbici al posto delle mani, una persona che non viene a contatto con nulla senza fare danni. La sceneggiatrice Caroline Thompson, fidata collaboratrice di Burton, sviluppa la storia. La 20th Century Fox produce e lascia al regista la massima libertà. Unica pressione? Nella parte del ragazzo senza mani sarebbe meglio una star, una figura in grado di fare da traino al film. Burton è perplesso, ma intanto si concentra sui ruoli minori. Uno di questi viene scritto dalla Thompson su esplicita richiesta del regista, l'anziano inventore che crea Edward e che muore prima di completarlo. Una parte romantica e poetica. Ovviamente Tim ha già in mente chi andrà ad interpretarla. La figura dell'inventore l'ho pensata su misura per Vincent Price. Desideravo fortemente che potesse prendere parte a questo film. Del resto ha contribuito in maniera determinante al mio successo. Per me era fondamentale. Il destino mette un sigillo ancora più alto e vibrante sul rapporto tra Burton e l'attore inglese. Edward Mani di Forbice è l'ultimo film che Price gira. Un anno e mezzo dopo, l'attore si spegne nella sua casa di Los Angeles. Nato e cresciuto sotto l'egida di Roger Corman, Price chiude la sua carriera e la sua vita consegnandosi al talento visivo e poetico di uno dei suoi più affezionati fan. Nel crocevia del set di Edward Mani di Forbice, però, Tim trova anche il suo vero attore feticcio e lo fa vincendo pressioni e resistenze piuttosto forti della 20th Century Fox. La Fox voleva ad ogni costo convincermi a scritturare Tom Cruise per la parte del protagonista, per cui gli avevo fatto avere il copione e l'ho incontrato, nonostante fossi molto scettico. È stato un incontro molto cordiale e piacevole, in cui entrambi ci siamo trovati d'accordo sul fatto che quella parte non fosse adatta per lui. Edward è un film destinato a cambiare la carriera di Burton. Il merito è indubbiamente anche dello spessore emotivo e interpretativo dell'attore scelto per interpretare il ragazzo con le forbici al posto delle mani. Poco dopo aver incontrato Tom Cruise, infatti, Burton riceve una telefonata dall'agente di un giovane e promettente attore che vorrebbe avere una chance per il ruolo di Edward. Scopriremo chi è fra poco, qui, a Destini Incrociati. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati ci siamo intrufolati sul set di un film hollywoodiano. A Lutz, in Florida, stanno per iniziare le riprese di Edward Mani di Forbice, regia di Tim Burton. È il 1990. Il regista californiano, resistendo alle pressioni della 20th Century Fox, ha respinto l'ipotesi di ingaggiare Tom Cruise nella parte del protagonista. Sulla scrivania del regista è giunto il profilo di un giovane attore che ha tutti i requisiti per ricoprire nel migliore dei modi la parte di Edward. Il suo nome è Johnny Depp e Burton decide di incontrarlo. Francamente non sapevo chi fosse. Non conoscevo quella serie I Quattro della scuola di polizia di cui era il protagonista. Sapevo che era un attore belloccio e che piaceva alle ragazzine, ma le sue foto mi avevano colpito. Mi aveva colpito lo sguardo, che doveva essere un elemento fondamentale del personaggio. Proprio lo sguardo è stato l'elemento che mi ha colpito subito al nostro primo incontro. Un incontro tranquillo, normale direi, sereno. Ho deciso quasi subito. Anche Depp ricorda molto bene il suo primo incontro con Tim Burton. Ci siamo incontrati per il provino. Davanti a me un uomo pallido, aria fragile, occhi tristi e una testa di capelli che raccontavano molto di più di una lotta notturna con il cuscino. Gli occhi spalancati e concentrati su nessun punto particolare. Occhi curiosi, occhi che hanno visto molto ma ancora divorano tutto ciò che incontrano. Questi due uomini, seduti l'uno davanti all'altro, probabilmente non sanno che sono sul punto di dare vita ad un sodalizio fortissimo, che segnerà nel profondo la storia del cinema degli ultimi 20 anni. L'incrocio dei loro destini cambia il corso delle loro carriere. In primo luogo, cambia radicalmente la carriera di Johnny Depp, che nel 1990 è ancora molto lontano dal divo oggi amato in tutto il mondo. Johnny Depp nasce nel Kentucky il 9 giugno 1963. Ha solo 5 anni meno di Burton. È il minore di 4 fratelli. Il padre John è un ingegnere, la madre Betty cameriera. La nonna materna Minnie è una nativa americana Cherokee e anche suo padre vanta lontane parentele con questo popolo. Nelle sue vene scorre il tumulto istintivo del sangue indiano, sottolineato da un tatuaggio di una testa di un capo Cherokee sul bicipite destro. Johnny, proprio come Barton, è un adolescente chiuso e scontroso. È un ragazzo borderline a cui piace bruciare le tappe, come ricorda lui stesso. Come definirei la mia infanzia? In poche parole, ho iniziato a fumare a 12 anni. Ho perso la verginità a 13 e a 14 avevo già provato tutte le droghe. Diciamo che era un ragazzo curioso. Dopo il divorzio dei suoi, Johnny ha una vita sempre più difficile. Scopre la musica, diventando un buon chitarrista rock. Ma abbandona gli studi, scappa spesso di casa e viene fermato più volte per rissa. La carriera musicale di Depp arriva a un passo dal successo, ma purtroppo si arresta un attimo prima della consacrazione. La sua band, i The Kids, non sfonda, sebbene faccia da spalla a musicisti del calibro dei Talking Heads o Billy Idol. La svolta arriva in seguito ad un assurdo matrimonio fallito. Nel 1984 Depp sposa la truccatrice Lori Ann Allison. Nonostante il matrimonio duri un anno, Lori gli presenta un amico, Nicholas Coppola, giovane nipote del regista de Il Padrino, noto nell'ambiente col nome d'arte di Nicholas Cage. Questi vede in Depp un volto da attore e lo trascina ad un provino per un horror. È così che Depp ottiene una parte nel film Nightmare on Elm Street, la sua prima apparizione sul grande schermo. È lo stesso Cage che ricorda il primo incontro con Depp. Mi ricordo quando ho incontrato Johnny Depp. Era un chitarrista che veniva dalla Florida e non aveva idea che avrebbe potuto diventare un attore. E gli dissi: penso veramente che potresti fare l'attore. Hai questo talento, credimi. Era come giocare a Monopoli con lui. Gli ho mandato il mio agente e poi è andato avanti. E guardate che carriera piena di successi. Dopo l'horror di Wes Craven, la carriera di attore di Depp si snoda lungo altre piccole parti in film di successo. Arriva Platoon di Oliver Stone. Nel 1987 arriva il successo. Un successo che si trasforma però anche in una prigione. Johnny è il protagonista di 21 Jump Street, una serie televisiva che in Italia arriva col titolo di I quattro del distretto di polizia. Johnny, il maledetto, l'anticonformista, il selvaggio, l'erede di James Dean e Marlon Brando, diventa il volto pulito del piccolo schermo, l'idolo delle ragazzine. La serie prosegue per 3 anni, che diventano per Depp una sorta di gabbia da cui non riesce a fuggire, un'immagine da cui non riesce a liberarsi. In una delle puntate più celebri della serie, accanto a Johnny, un altro bello di Hollywood, Brad Pitt. Quando Depp si presenta a Barton per il provino, è solo il bel volto di una serie televisiva per ragazzi. È un mini sex symbol, apprezzato dalle ragazzine per il suo bell'aspetto. Barton gli cambia la carriera, cambia completamente la sua prospettiva. Lo sceglie per il suo protagonista, ma lo ricopre di make-up, lo infila in una goffa tutta in latex, gli rifila delle forbici al posto delle mani. Lo educa, insomma, a fare a meno della sua bellezza. Lo scopre, lo inventa come attore in grado di sparire nel personaggio. Sul grande schermo, da quel 1990, non vedremo più Johnny Depp. Vedremo solo i suoi personaggi. Per un attore è la svolta determinante. Johnny ha questo incredibile pregio. Sparisce dentro al personaggio. È indubbiamente il più grande camaleonte che io abbia mai diretto. Lavorare con lui diverse volte è come dirigere ogni volta una persona diversa. Ricorda le stelle del cinema horror di una volta. A proposito di stelle horror del passato, c'è una sequenza in Edward Mani di Forbice di una bellezza struggente e profondamente significativa rispetto a tutto il cinema di Barton. L'inventore Vincent Price assembla la creatura Johnny Depp per poi ispirare prima di averlo completato. In un'immagine di grande malinconia e significato, è come se avvenisse un ideale passaggio di consegne. Price, attore feticcio di Roger Corman e idolo di Barton, lascia il posto all'uomo che diventerà il simbolo stesso del cinema del regista americano nei panni del personaggio Edward Mani di Forbice. Personaggio cult dell'immaginario del regista, icona dark, con lo sguardo tenero e il look che rimanda senza dubbio a Robert Smith, dei Cure. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati siamo sul set di Edward Mani di Forbice, capolavoro di Tim Burton, dove si intrecciano i destini del regista americano e di colui che diventerà il suo attore feticcio, Johnny Depp. Nel cast anche Vincent Price, l'attore preferito da Roger Corman per i suoi horror, film amatissimi da Tim Burton, che ha sempre venerato il magnetico attore americano. Tra Burton e Price si è instaurata una bella amicizia, dopo che quest'ultimo l'ha aiutato per il suo esordio di Vincent. Price muore poco dopo le riprese di Edward Mani di Forbice, sancendo di fatto il passaggio di consegne con Depp. Ora è lui, un attore giovane e con una carriera tutta da vivere, a dover dar corpo e vita ai sogni e agli incubi di Tim Burton. Per me Edward è un film fondamentale, perché c'è tanto della mia personalità in questa storia. È una vicenda universale, perché parla di come per alcuni individui sia difficile mettere in contatto il proprio mondo interiore con quello esteriore. Johnny è stato fantastico, perché è stato in grado di dare concretezza a queste mie sensazioni, a esprimere pienamente il senso del personaggio, un personaggio che sento molto vicino. Edward Mani di Forbice è un grande successo, di pubblico e di critica. Per la prima volta, Depp viene celebrato per un ruolo adulto e ottiene anche qualche candidatura a qualche premio internazionale. Tutto il cast funziona, soprattutto Winona Ryder, che ha anche una storia con Depp. La Ryder ricorda così un curioso aneddoto sul suo primo approccio con Tim Burton. La prima volta che l'ho incontrato non sapevo che lui fosse il regista. Pensavo fosse uno del team delle scenografie. Ci siamo messi a parlare molto tranquillamente e ad un certo punto gli ho chiesto: «Senti, ma dov'è Tim Burton?» E lui mi ha risposto: «Beh, veramente sono io». Me lo ricordo chiaramente, anche se è passato molto tempo. Tutti i ricordi legati a lui e a quel film sono positivi. Penso sia raro incontrare qualcuno con cui legare tanto rapidamente. Burton, Depp, Elfman. Il ricordo dei grandi divi del passato che hanno popolato i sogni e le fantasie dell'adolescenza del regista. Negli anni, la coesione fra questi elementi, la capacità di arricchirsi e diffondersi con altre suggestioni, si rafforza. I film memorabili arrivano in serie. Senza Depp, subito dopo, Burton gira Batman Il Ritorno e Nightmare Before Christmas. Nel 1994, Burton deve raccontare la bizzarra storia di Ed Wood, il peggior regista della storia del cinema. Deve raccontare l'improbabile sodalizio con Bela Lugosi, attore ungherese, divo dei primi horror Universal, uno dei Dracula più eleganti della storia del cinema. Morfinomane, in pieno disfacimento fisico e morale, negli anni 50 viene raccolto da Ed Wood, un regista fantasioso, creativo, ma completamente privo di talento. Tra i due, una grande amicizia, che genera film inguardabili come Piano 9 dall'interspazio o La sposa dell'atomo. Per Lugosi, un ultimo scampolo di gloria. Burton si riconosce in Ed Wood. Il suo ottimismo, la sua visione del cinema, sono tutte cose che sento vicine. E naturalmente il suo rapporto con Lugosi mi ricorda il legame stretto che ho creato con Vincent Price all'inizio della mia carriera. I conti tornano. Per interpretare l'attore prediletto da Wood, metafora per raccontare il proprio legame con Vincent Price, Burton non può che richiamare Johnny Depp, il suo attore prediletto. In questo incrocio di piani e di livelli, la sorte e la carriera di attore e regista si saldano definitivamente. Penso che in Ed Wood, come sempre, ci sia tanto di Tim. Hanno la stessa visione del cinema e del mondo, solo che Wood era completamente sprovvisto di talento, Tim ne ha in eccesso. Burton e Depp girano insieme altri 5 film: Il mistero di Sleepy Hollow, La fabbrica di cioccolato, La sposa cadavere e il musical Sweeney Todd, dove Johnny mette in mostra anche le sue doti musicali e canore. E sentite che voce! These are my friends, see how they glisten, see this one shine, how he smiles in the light. My friend, my faithful friend. E l'ultimo, Alice nel Paese delle Meraviglie, di prossima uscita. Sei assolutamente Alice, ti riconoscerei tra mille. Provate a immaginare questi film senza il volto, il corpo, la capacità istrionica di rischiare e di mettersi in gioco di Johnny Depp. Impossibile. La pensano così anche Marco Müller, direttore della Mostra del Cinema di Venezia, e i suoi collaboratori, quando nel 2007 decidono di assegnare a Tim Burton il Leone d'Oro alla carriera. Ignorato dagli Oscar, il regista americano riceve finalmente un premio internazionale e gli organizzatori della mostra chiamano per la consegna del riconoscimento, naturalmente, Johnny Depp. Per me è un grande onore premiare il regista Tim Burton, come è stato un onore far parte del suo cinema. Avrei tante cose da dire, ma se lo faccio Tim non mi chiama più. Lui appartiene alla razza dei veri artisti, degli autori e per me dei veri amici. È il più grande premio che io abbia mai ricevuto. Molto meglio un leone su una piattaforma di un Oscar, un uomo nudo con una spada in mano. Aggiungo che è bellissimo ricevere questo premio dalle mani di Johnny, grande amico e grande attore. Del resto, anche la carriera di Depp, pur ricca di successi e di grandi trionfi, non sarebbe la stessa se non avesse incrociato Burton e non avesse aggiunto alla sua galleria di ruoli i volti e gli spunti dei personaggi concepiti dal regista di Burbank. Il rapporto tra di noi si basa su un'alchimia misteriosa che abbiamo sentito fin dal primo incontro. Abbiamo le stesse reazioni, piangiamo e ridiamo delle stesse cose. C'è sempre stata una sintonia perfetta. Pensare che il nostro incontro è legato al caso. Johnny è la persona con cui il lavoro diventa divertimento ed è l'interprete che più mi stimola. Con lui posso esplorare nuovi territori perché, al contrario di molti attori che vogliono essere sempre se stessi, il suo piacere è trasformarsi. È un creatore di caratteri. Con lui sto bene come con nessuno. Siamo curiosi di vedere come questo sodalizio, che non lascia intravedere la minima crepa, possa offrire ancora grandi storie e splendide favole. Un sodalizio basato su un'amicizia nata per caso, quel caso spesso protagonista delle storie che raccontiamo e che con i suoi incroci e i suoi spettacolari capovolgimenti scrive giorno dopo giorno la nostra vicenda quotidiana. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.